Dario Fo, ma che le pare una Milano che si piega al diktat di Pechino? Le piace questa Milano? Ma come ricatto è pesante, è comprensibile che uno che ha la responsabilità con il nostro sindaco di tenere in piedi un discorso, o meglio un'organizzazione importante e rischiare che vada tutto a scatafascio. Io non vorrei trovarmi ma perché dice dei panni suoi. Perché dice comprensibile? Scusi, è un, voglio dire, cioè ci siamo calati le braghe. Ha una responsabilità totale di denaro, di lavoro e via dicendo, non si può andare così a piedi giunti e speriamo che ci porti bene. Perché? Perché il fatto di io come cittadino libero e ragionante, ma come cittadino che non ha impegni con il governo della città, dico vabbè, cosa me ne importa, io voglio la mia dignità, non ci si va, e così i cinesi verranno a sapere finalmente che razza di coraggio ha Milano, eccetera eccetera. Ma qui c'è di mezzo poi lo svolgimento di un'intera struttura portante di Milano in questo tempo, è uno degli elementi fondamentali di un programma. Cioè, lei uomo che ha lottato per la libertà, che lotta per la libertà, premio Nobel per la letteratura, premio Nobel anche il Dalai Lama per la pace, ma voglio dire, dobbiamo dire ma gli interessi sono questi. No, ma ci si sente veramente umiliati, mortificati, impotenti, e vi dicendo, dico la verità, ripeto, io nella mia situazione di attore, di scrittore, via dicendo, io urlo quasi bestemmiando che è indegno, che questo popolo oltretutto al quale si toglie la libertà, si fanno violenze, umiliazioni di ogni tipo, non ha la possibilità di farsi ascoltare. Ci sentivo prima, si parlava del presidente americano, il quale ha dovuto anche lui smorzare il valore, il peso del suo gesto, che vedeva Dalai Lama accolto dentro la Casa Bianca, però in uno spazio particolare per incontri non altamente politici. Siamo a questo punto. Chi ha in mano, siamo una società dove chi ha in mano il potere, soprattutto economico, ha la possibilità di imporre che si faccia una determinata politica e imporgli che si accetti l'umiliazione, la mortificazione, la violenza contro un popolo intero. Dario Fo, le voglio chiedere questo. Se l'avesse fatto il sindaco Letizia Moratti di centrodestra, lei sarebbe stato ugualmente comprensivo nei suoi confronti? Beh, a parte che mi fa venire in mente, già che siamo a Milano, un proverbio che dice: se la mia nonna che avesse il sarei un tramvai. Cioè se traduciamolo per tutti: se mia nonna avesse le ruote sarebbe un tram. Però voglio dire, spiegare anche cosa significa, che se tu metti davanti in sé il paradosso, l'assurdo, si può fare tutto, si può mettere nel campo ogni cosa, anche la più assurda. Perché proprio l'idea della Moratti, che a un certo punto va ad abbracciare Dalai Lama, è così grottesca da farlo diventare una farsa. Ma perché? Allora, perché? Delle cose no, però perché? Cioè, lei non è che è vicino a Pisa Pia e quindi è pronto a dire ha fatto in nome dell'interesse superiore, mentre se c'era la Letizia Moratti, lei sparava zero su Letizia Moratti. Ho detto che ogni cittadino libero da impedimenti, da trucchi, che non deve subire una violenza così smaccata, deve muoversi, deve darsi da fare, deve agitare, deve soprattutto dichiarare il proprio dissenso verso la Cina, che adopera del denaro e della forza che ha in questo momento per imporre quella che è un atto indegno, insomma, per una nazione veramente libera e con una storia come quella che ha la Cina negli ultimi anni. Ma come si fa a tuonare contro la Cina se solo si dice diamo la cittadinanza al Dalai Lama, questi non veniamo all'Expo? Figurarsi se Pisapia potrà dire mai qualcosa contro, non so, i diritti umani in Cina, per esempio. Ma ci ha fatto una cosa, ha seguito quello che un po' ha realizzato il presidente americano, cioè lo riceve ugualmente in un'altra situazione, ma però che abbia impegno e che riproponga ancora il discorso della libertà. Questo sì. Comunque lei respinge l'accusa di dire sono più comprensivo con Pisapia perché è di sinistra, insomma, perché è un sindaco più vicino a me. Con la Letizia Moratti invece l'avrei criticata duramente questo atteggiamento. Ma siamo sempre lì. Poteva avvenire che la Moratti realizzasse una cosa del genere, e allora scartiamo. Dice no, la Moratti ma sarebbe stata nel suo. Com'è? Ma perché la Moratti non avrebbe potuto ricevere il Dalai Lama? Non ma scherziamo, non è vuol dire che l'avrebbero presa tutta e portata al Neurodeliri. Gli uomini della politica intorno, perché non fa parte del suo programma e il suo modo di essere. È semplice. Ma perché? Cioè, qual è il modo di essere? Nel senso, non so. Perché ma è reazionaria, ben detto, signore. Perché è reazionaria? È reazionaria in tutto, nell'agire, nel dire, nelle ipocrisie, in tutto quello che è stata la sua politica.